nemico, non è, ma non è oltre la tua frontiera. Il nemico non è, no, non è al di là della tua trincea. Il nemico è chi sfrutta il lavoro e la vita del suo fratello. Il nemico è chi ruba il pane e la fatica del suo compagno. Bene, dopo Iannacci, qui adesso Luca ci introdurrà un po' la presentazione del libro. Vabbè, allora innanzitutto grazie mille dell'invito, sono felice e onorato di stare in un posto così carico di storia ribelle. Allora, magari per iniziare vorrei dire qualche parola sull'itinerario di Francesco Misiano. Stasera presentiamo questo suo discorso alla Camera dei Deputati, in cui rivendica la sua scelta della diserzione durante la Grande Guerra. Allora, Misiano è un calabrese che per ragioni di lavoro si sposta a Napoli, dove viene impiegato dalle Ferrovie dello Stato, ma a Napoli soprattutto incontra la lotta politica e la lotta sindacale. Ben presto diventa uno dei riferimenti più importanti del movimento operaio napoletano a fianco della sinistra socialista. A Napoli in quegli anni c'era una figura importante come quella di Amadeo Bordiga. E appunto insieme ad Amadeo Bordiga, insieme ad altri militanti del movimento politico e sindacale, Misiano sarà uno dei protagonisti della Settimana Rossa a Napoli. Quindi siamo nel giugno 1914. L'organizzazione e la partecipazione ai moti della Settimana Rossa gli costano il licenziamento dalle Ferrovie dello Stato. L'impegno contro la guerra viene sempre fatto pagare duramente. Tuttavia però erano anni in cui il sindacato aveva abbastanza forza e abbastanza voglia di combattere, per cui Misiano, diciamo così, viene assunto direttamente nei ranghi del sindacato e a partire da questo momento inizia una peregrinazione che lo porta lontano dal sud Italia. Viene fatto trasferire a Torino, dove diventa uno dei dirigenti del movimento sindacale a Torino e si occupa ovviamente della sezione dei ferrovieri. Siamo nel 1914, di qui a qualche settimana scoppierà la grande carneficina europea e Misiano sarà a capo dei moti contro l'intervento dell'Italia in guerra. In particolare Misiano si distingue per il suo coraggio, per la sua energia anche, doveva essere un tipo davvero molto energico, nella vera e propria insurrezione che scoppia a Torino nel maggio 1915. A scuola ci hanno insegnato spesso le gloriose giornate di maggio, sono quelle del farabutto D'Annunzio. E in realtà però il maggio 1915 ha visto anche... C'è altro. Appunto erano le manifestazioni anti-interventistiche, radicali, forti, potenti, popolari. A Torino ci sono 100.000 operai che sfilano in città contro l'intervento della guerra in Italia. Quindi diciamo così, quasi tutta la classe operaia torinese era contro l'intervento in guerra. Ci saranno feriti, morti. Purtroppo non si riesce a fermare l'ingresso dell'Italia in guerra, quindi l'Italia aderisce a questa carneficina e Misiano ancora una volta paga in prima persona perché viene gettato in prigione per 4 mesi. Uscito di prigione si riattiva di nuovo, benché la guerra sia già scoppiata, quindi diventava molto più pericoloso impegnarsi contro la propria patria. E qui inizio, magari più che sentire me, vi leggo un passaggio di Misiano, un po' per capire la sua posizione. Quando nel 1915, il 17 maggio, a Torino fu dichiarato lo sciopero generale di protesta contro la guerra, io non disertai il mio posto. Non disertai la battaglia a favore del movimento socialista. Io fui tra coloro che parlarono e assunsero le loro responsabilità. Io fui tra coloro che alla testa del corteo sbucarono in piazza Castello. Fui accanto a coloro che caddero sotto il piombo della cavalleria. E poi, quando il giorno dopo mi vennero ad arrestare e mi trascinarono in prigione e i giudici mi interrogarono, io afferrai i miei principi internazionalisti e sorrisi alla minaccia come la lusinga. Quando, dopo 4 mesi di prigione a Torino, sofferti per essermi opposto alla guerra, sono stato restituito alla libertà provvisoria, ho continuato, ho intensificato la mia opposizione alla guerra. E l'ho fatto quando la guerra era dichiarata, quando opporsi alla guerra costituiva un delitto che io compivo in piena coscienza, con tutto il senso della responsabilità. Qui già c'è un discorso importante che magari possiamo sviluppare dopo. Che cos'è la diserzione? Ovviamente questa energia di Misiano dava sempre più fastidio, quindi i diversi poteri, qualche mese dopo, della primavera del 1916, decidono, per farlo tacere, per bloccarlo, di inviarlo ad un centro di addestramento militare con la minaccia di spedirlo al fronte. All'improvviso Misiano viene dichiarato abile e arruolabile per la guerra, nonostante fosse miope. La sua decisione è quella, quando viene minacciato di essere appunto inviato al fronte, è quella di disertare. Questo è il momento decisivo della sua vita, che marcherà in effetti la sua vita. Ho avuto anche questa volta l'incertezza dell'animo, il destino talvolta che sorge al di fuori della nostra coscienza e della nostra volontà e che dà improvvisamente un indirizzo ai nostri passi, mi fece dire: sono stato dichiarato disertore. Ebbene, tentiamo la diserzione. Non l'avevo mai pensata, ma la difendo, ma la sostengo. la faccio mia. Qui mi sembra oltremodo interessante il verbo che Mesiano utilizza per indicare la sua scelta, tentare una diserzione. La vita di Mesiano, nonostante il fatto che egli fosse chiaramente un militante politico assolutamente cosciente, uno che ha dedicato la sua vita alla militanza politica, si configura come una serie di tentativi. Sceglie la diserzione e va a Zurigo, va in Svizzera, dove ovviamente incontra tutta una rete di italiani che già aveva fatto la scelta della diserzione, l'anarchico calabrese Bruno Misefari, per esempio. Da qui, sempre per caso, si troverà qualche mese dopo a Berlino, durante la rivoluzione spartachista, e rivendica la sua partecipazione alla rivoluzione spartachista dicendo: io ho disertato la vostra guerra, la guerra tra stati, ma non diserto la mia guerra, la guerra civile, la guerra che appunto si combatteva nelle strade di Berlino. Appunto, nelle strade di Berlino c'è un altro tentativo. Poi rientrerà in Italia, dove viene eletto trionfalmente al Parlamento, nel collegio di Napoli e nel collegio di Torino. Però, come dice in questo passaggio che ho letto, come dire, è come se avessimo l'impressione che non c'è mai una premeditazione in quello che fa. È come se appunto queste derive continue, Calabria, Napoli, Torino, Zurigo, Berlino e infine Mosca, fossero appunto dei tentativi. È come se la vita di Mesiano fosse una somma di tentativi, dei veri e propri esperimenti che lui fa sulla carta delle ribellioni operaie e antibelliche in corso. Se segniamo praticamente i punti che Mesiano tocca nella sua vita, sono punti in cui appunto sta nascendo qualcosa, non si sa cosa, no? Non si sa cosa, ma si sta muovendo qualcosa, e lui va lì come per sperimentare qualcosa, come per sperimentare qualcosa. È come se in queste erranze attraverso l'Italia e poi attraverso l'Europa Mesiano non smettesse di inventare la propria vita. Gli scontri di piazza a Torino, la diserzione in Svizzera, la rivoluzione in Germania sono cioè delle occasioni sempre contingenti, se non aleatorie, per imprimere un altro, inedito sempre, indirizzo alla propria vita. E qui forse possiamo iniziare a capire che cos'è questa diserzione, e forse la diserzione di Mesiano, ma forse in generale anche che cos'è la diserzione. La diserzione è una schivata rischiosa, insensata rispetto alla storia. È quello che accade a Mesiano. Domani diventi soldato, domani devi partire per il fronte, e allora tu che fai? O segui il gregge, come diceva un grande scrittore francese, no? Jean Genoux. Ti metti dietro, ti identifichi, diciamo così, con la massa che accetta la guerra. Oppure scavalchi il muro della caserma e ti metti a cercare un'altra strada. Oppure, come ho detto prima, tenti un'altra strada. Cito Mesiano: io modestamente, assai più modestamente, dissi no. Tutto comincia sempre con un no. La diserzione, è quello che cerco di dimostrare nella prefazione a questo libro, è innanzitutto una questione etica. Ogni diserzione politica è etica, cioè non è mai morale, non c'è nessuna prescrizione in Mesiano, nemmeno un'indicazione del proprio esempio. Ovviamente può diventare un esempio la scelta di Mesiano, e questo discorso è stato pubblicato per la prima volta dal Partito Comunista d'Italia, che era appena stato fondato a Livorno, proprio per offrire un esempio. Ma la diserzione in Misiano non è mai una costrizione della determinazione. Quello che voglio dire è che per capire la diserzione di Misiano bisogna avere ben chiara la differenza tra etica e morale. Un disertore alla Misiano non è un moralista, cioè non agisce mai in nome di valori superiori. Quando fa quella scelta di partire, di lasciare la caserma la notte del 1916, come dire, non ci ha pensato prima, quindi non lo fa in nome, diciamo così, di un'opposizione astratta alla guerra. Molto probabilmente poteva anche pensare qualche giorno prima di andare in guerra, ovviamente nel suo spirito per sobillare i soldati, no? Come hanno fatto molti militanti socialisti all'epoca. Cioè, vado in guerra perché il mio posto è lì, perché devo stare a fianco ai soldati e devo farli sollevare. Invece lui sceglie di non andarci, appunto, da un punto di vista etico, cioè senza un fondamento, senza dare un fondamento alla sua scelta, senza un archè. Cioè, la diserzione in Misiano è una sorta di scioglimento da qualsiasi legame. È proprio questo sciogliersi rispetto al proprio mondo, famiglia, patria, amici, apre in Misiano alla dimensione politica. Cioè, la diserzione in Misiano è un tentativo, e qui sottolineo ancora una volta la parola tentativo, di slegarsi da qualsiasi principio che ci obbliga a fare qualcosa. Può essere anche ovviamente un principio buono. Alla fine questo discorso di Misiano pone una domanda, una semplice domanda. Che cos'è una vita non fascista? Che cos'è una vita liberata? Misiano dimostra, senza dire, che una vita del genere, cioè una vita liberata, una vita non fascista, è una vita che è capace di entrare continuamente in nuove metamorfosi. Tornato in Italia, Misiano diventa il simbolo, sempre malgrado lui, della diserzione, cioè del fatto che è possibile vivere una vita continuamente aperta, capace di accogliere in ogni momento l'azzardo, il caso. Durante gli anni del suo ritorno in Italia si scontra quasi quotidianamente con nazionalisti e con fascisti. Quando D'Annunzio occupa Fiume e crea questo stato, insomma, nazionalista, proto-fascista a Fiume, Misiano vuole andare a Fiume per combattere il nazionalismo di D'Annunzio, e D'Annunzio emetterà una condanna a morte contro Misiano, vivo morto, Misiano. E a partire da questo momento il nemico pubblico numero uno dei fascisti in Italia è proprio Misiano, che verrà aggredito diverse volte per strada, a Napoli, a Bologna, verrà aggredito anche dentro le aule ovattate del Parlamento, dentro il transatlantico. Misiano anche in questo caso cerca di resistere, sfida anche spesso i fascisti. A un certo punto però le cose diventano troppo pesanti per Misiano e lui e il Partito Comunista al quale aveva aderito decidono di farlo partire. Troppo pericolosa l'Italia, appunto per questo simbolo. Cioè, in effetti Misiano incarna tutto ciò che i fascisti odiano. Questo è un punto importante. Cioè, la guerra, penso che questo sia un punto di attualità che può essere interessante sviluppare, la guerra è dalla parte dei fascisti. Chi si oppone alla guerra è antifascista, il che non significa, essere pacifista. Misiano non era pacifista, perché infatti a Berlino prenderà le armi. Come dice quel manifesto che fonda la sala, c'è differenza fra guerra interna e guerra esterna. È il famoso slogan guerra alla guerra. Misano lo dice spesso in questo suo intervento. Ho disertato la vostra guerra, non diserto la mia guerra. Quindi deve lasciare l'Italia e inizia una nuova vita, perché un'altra deriva, un'altra erranza. Si ritrova a Mosca, però anche qui a Mosca, come dire, Misiano diserta ancora una volta da se stesso. Perché? Perché a Mosca si ritrova a diventare produttore cinematografico. La sua casa di Mosca diventa una sorta di cenacolo intellettuale in cui ci sono registi, in particolare Misiano è molto legato a uno dei grandi registi del cinema sovietico, Pudovkin. E poi a casa sua monta, insomma, anche materiale per vedere i film, e quindi diventa una sorta di circolo politico, letterario. E ancora una volta, immaginate un po', no? Il ferroviere calabrese a Mosca sì, che parla di cinema con Pudovkin, con gli altri, eccetera. Quindi si vede bene, no? Questo fatto di spogliarsi di se stesso e di entrare sempre in nuove metamorfosi. Purtroppo le sue erranze, queste derive, finiscono proprio a Mosca, dove si sta imponendo sempre di più la controrivoluzione staliniana. Misiano viene guardato con sospetto dal nuovo potere staliniano e inizia ad avere problemi. E a me ha colpito molto una testimonianza della figlia di Misiano, la quale racconta che il padre, quando appunto sente arrivare la scure dello stalinismo su di lui, chiede di essere trasferito in Abissinia, perché voleva combattere contro il colonialismo italiano. Qui a Milano, permettetemi di dire, c'è una piazza dedicata a Montanelli, no? Un bel farabutto colonialista. E chi ricorda invece Misiano? E chi lo conosce Misiano? Allora, ovviamente questo libro che abbiamo fatto con Maurizio Zanardi di Cronopio è un tentativo, diciamo così, di recuperare una tradizione, alla Benjamin, possiamo dire, restaurare e inventare anche una tradizione degli oppressi. Per finire, io direi che, appunto, se citando Benjamin, come dire, che la speranza, il compito di questa riedizione, di questo libretto, è anche quella di cercare di andare oltre la storia. Perché appunto, se guardiamo storicamente Misiano, stiamo parlando di un mondo finito, di un mondo che non esiste più. Grandi movimenti sindacali, grande partecipazione popolare, Partito Comunista, Partito Socialista, Unione Sovietica, quindi tutto il mondo del Novecento che è scomparso. E Misiano è una delle tante, potremmo dire, silhouette, una delle tante vite protagoniste e allo stesso tempo travolte da questa storia. Però appunto la scommessa di questo libretto è cercare di capire: c'è qualcosa che Misiano, nonostante sia un uomo del secolo breve, anzi dell'inizio del secolo breve, che non è finito. Ecco qua, e qua mi finisco anch'io. Non so se, vabbè, grazie mille. Grazie per adesso. Allora, la presentazione del libro di Misiano ci dà l'occasione di tornare sulla questione della diserzione, del disfattismo e sulla lotta contro la guerra. Questioni che gli scenari, in primis Ucraina e Palestina, ci impongono di prendere in considerazione oggi, stamattina, ieri, non ci dimentichiamo della Siria, ci impongono di prendere in considerazione in quanto simboli e fattori di avvicinamento e possibilità di trasformazione della crisi generale del capitalismo in guerra mondiale. Disertori e renitenti in Ucraina, Russia e Israele vedono, o perlomeno una parte di loro, la necessità di collegare l'atto individuale in atto collettivo contro la guerra, per intralciare il processo di precipitazione del conflitto. Nel discorso di Misiano, che viene ripreso nel libro, che è il suo intervento alla Camera per difendersi dal tentativo di arrestarlo nuovamente, appare una chiara rivendicazione della partecipazione alla guerra di classe contro il capitalismo e conseguentemente alla lotta antimilitarista prima, durante e dopo la Prima Guerra Mondiale. Nel 1915, chiamato alle armi, non potendo svolgere il disfattismo tra i proletari in divisa, salta al muro della caserma e diserta. A Berlino, nel 1919, partecipa, armi alla mano, ai moti spartachisti e alla difesa dei locali del Wehrmacht, l'organo di stampa del Partito Socialdemocratico Tedesco, attaccato dai Freikorps, le milizie armate controrivoluzionarie. Si arrende perché è rimasto senza munizioni e ci fa sorridere il titolo di una recente recensione del libro apparsa sul Corriere del Mezzogiorno, titolata Il disertore pacifista. Vogliamo sottolineare come Misiano sia riuscito a collegare la lotta antimilitarista, disfattista, prima e durante la guerra, la diserzione e la partecipazione al tentativo rivoluzionario in Germania come guerra di classe. Quindi, prima di passare a parole agli interventi e alle domande, non possiamo che invitarvi a prendere il libro. E adesso, se qualcuno vuole chiedere qualcosa, ci aiuta e noi cercheremo di rispondere. Grazie. Devi venire qua. Perché sennò la radio, che in tutto il mondo ci sta seguendo, non sente. La domanda è molto banale. La diserzione, al di là delle persone che la persona stava nominando, era praticata ed era punita gravemente? No, non lo so, cioè sì, immagino. Non so, no, è chiaro, noi per esempio, no, io, appunto, studiando un po' queste questioni, cioè, le grandi figure della diserzione della Prima Guerra Mondiale, quelle diciamo così più canoniche, più conosciute, no, dico, ma pure diciamo Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, cioè tutti i testi che noi leggiamo di Rosa Luxemburg li scrive in prigione, quindi, perché ovviamente lei sviluppava col suo gruppo, che poi appunto darà origine ai moti spartachisti, una campagna antimilitarista molto violenta. Quello che è interessante per quanto riguarda l'Italia è che c'era effettivamente un grande movimento contro la guerra in Italia. L'Italia si distingue nel 14-15 per un rifiuto della guerra che è anche popolare. No? Le manifestazioni di cui ho parlato prima, la Settimana Rossa, e poi successivamente i moti di Torino esprimono bene questo rifiuto popolare della guerra. E si badi bene, il Partito Socialista Italiano, tra mille contraddizioni, non aderisce alla guerra, non la sabota, però non aderisce alla guerra e non aderirà mai, ed è un caso unico, non unico, raro, cioè gli unici partiti socialisti in Europa che non cedono al militarismo sono il Partito Socialista Russo, il Partito Socialista Italiano e quello serbo, per dire che quindi c'era una spinta popolare contro la guerra. Moti contro la guerra, ho citato quelli del 15, sempre a Torino ci saranno grandissime manifestazioni del 17 contro la guerra, e poi, come giustamente, Caporetto ovviamente, il Caporetto è una grande ritirata dalla guerra. Quindi sì, c'è un grande movimento popolare contro la guerra, in particolare in Italia, poi sorgerà anche in altri paesi come in Francia, eccetera, però in Italia questo movimento esiste già da prima della guerra. Misiano è il nome di questo. Misiano è il nome di, per questo è un personaggio interessante, perché è un nome di, è un, diciamo così, una testa che possiamo mettere su questo movimento popolare diffuso in Italia. E non è un caso che subito dopo la guerra, alle prime elezioni politiche, Misiano risulta il primo eletto nel collegio di Napoli. Quindi effettivamente c'è un grande movimento contro la guerra in Italia, c'è una grande repressione di questo movimento, ci saranno processi sommari, ci sono molti libri storici molto interessanti su queste questioni della repressione del movimento contro la guerra, e poi dopo la guerra, insomma, rinasce questo movimento anti-war, e che viene manifestato da Misiano. Ovviamente il fascismo, dall'altra parte, è un tentativo di, invece di continuare la guerra e di fare una guerra infinita, no? Che poi è un po' il mondo di oggi, sì, la guerra, quello della guerra infinita, no? Quindi vince il partito della guerra alla fine, però insomma si impone con molta, insomma, difficoltà in Italia. Insisto sull'argomento perché però nessuno prende in considerazione di colpire le fabbriche delle armi. No, ma anche oggi, voglio dire, per certi versi. Colpire non intendo farle saltare, è un po' pericoloso. In realtà il problema è il problema, insomma, di questi moti del 1915 di cui ho parlato, è che, come dire, allora, una cosa è fermare la macchina della guerra prima che la macchina della guerra si metta in moto. A me, per esempio, dopo non è più semplice. Allora, effettivamente, i primi moti di cui ho parlato, quelli del maggio 1915, furono manifestazioni importanti, importantissime, e là c'è il grande dibattito storico, perché non si riuscì a fermare l'ingresso dell'Italia in guerra, nonostante questi movimenti. E allora effettivamente, insomma, i vari Bordiga, i vari dirigenti del partito che erano su posizioni intransigenti contro la guerra, insomma, indicano proprio questo fatto, cioè che non fu fatto, diciamo così, tutto quello che occorreva fare per fare la guerra. Misiano in questo libretto lo dice, è un piccolo discorso, però lui effettivamente dice: io sono stato contro il Partito Socialista perché il Partito Socialista si è dichiarato contro la guerra, ma non contro il sabotaggio della guerra. Quella è la questione, quella del sabotaggio, no? Effettivamente non è stato fatto questo passaggio dall'opposizione, non è neanche una posizione di principio, perché ci sono state le manifestazioni, però non è stato fatto, diciamo così, il passaggio supplementare al sabotaggio. Questo è mancato. Poi però, quando la guerra inizia, la finisce tu, è la storia della Francia, della Germania, dove praticamente lo scoppio della guerra significa anche la fine di tutti i movimenti pacifisti. Qualche giorno prima dell'inizio della prima guerra mondiale ci sono ancora grandi manifestazioni in Francia contro la guerra, parallele Francia e Germania. Jaurès fa un grandissimo discorso alle porte di Parigi, Pré Saint-Gervais, ci sono 200-300 mila operai che lo ascoltano. Qualche giorno dopo viene dichiarata la mobilitazione generale e il movimento finisce, appunto. Non c'è stato questo... Sì. Vabbè, dopo. Veloce, volevo dire che nel movimento attuale contro la guerra, quello che diceva Flavio, qualcosa c'è stato, nel senso che ci sono state manifestazioni e picchetti davanti alla CAB di Cattaneo a Milano, contro la Fiocchi a Lecco, contro la Leonardo di Cameri. Certo, sono cose minoritarie, però comunque qualcosa c'è stato, vogliamo, è bene sottolinearlo, queste forme antimilitariste, diciamo, dirette. Prima è che, secondo me, bisogna dire che a Caporetto i soldati scappano pensando che la guerra ormai sia perduta, è finita, si torna ai campi. Quella è una guerra che ancora molti civili impiegati massicciamente in una sconfitta conclamata e conosciuta. Non farei il salto immediato fra la prima e la seconda guerra mondiale, perché in mezzo c'è Weimar, c'è per noi l'ascesa del fascismo, c'è il biennio rosso, c'è un'idea diversa di guerra, identità nazionalistiche che si preparano a un conflitto dentro un collasso dell'Europa. Cioè lì crolla l'eurocentrismo in maniera definitiva. La seconda cosa, questa mi è cara da un punto di vista più etico-politico, è che non farei coincidere diserzione con disfattismo. Noi non siamo, io non sono disfattista, penso che comunque di fronte a ogni evento occorra assumere. La diserzione è un'assunzione, come il soldato a Berlino nel suo monumento, che sottolinea, no? una prassi che a molti è costata tantissimo. Per cui insomma direi che ci sono dei passaggi in cui è vero che la seconda guerra mondiale in qualche modo è erede della prima, ma in mezzo c'è il salto dei nazionalismi e delle identità nazionali imperialistiche, che però stanno mostrando la corda, sono ormai al collasso. La Germania dopo il 29 è qualcosa, l'Italia dopo il biennio rosso e dopo il 24-25 prepara, no, come dire, l'affidamento a qualcosa che è anche nuovo, perché è nuovo, cioè queste dittature sono assolutamente una nuova configurazione del rapporto con le masse, tutte le masse. Grazie. Hai fatto bene a tenere distinta la diserzione dal disfattismo, per un motivo molto semplice, che quando si parla di diserzione immediatamente viene in mente il fatto individuale. Nel momento in cui questa diserzione diventa un fenomeno di più persone, ecco che immediatamente diventa qualche cosa che, se non è ancora politico, però è un pre-politico, e a questo punto c'è un problema di organizzazione e poi ci sarà anche un problema di direzione di questo movimento, che allora diventa sì il disfattismo, ma che è un passaggio che però diventa necessariamente collettivo, quindi esce da una dimensione etica, morale, e chi ne ha più ne metta. È vero, la questione di Caporetto, come l'hai detta, in parte era questo, perché è chiaro che se a Caporetto, invece che tornare a casa, è un po' come oggi, che fine fanno i disertori russi, i disertori ucraini, i disertori israeliani? In piccole parti si stanno organizzando, sono ricercati, cercano di fare qualcosa, ma è chiaro che al momento rimangono in un ambito che non c'entra ancora col disfattismo, perché il disfattismo non può essere un fatto individuale, diventa necessariamente un fatto collettivo, un fatto che presuppone immediatamente almeno l'organizzazione e poi una direzione che poi può essere un programma politico. Insomma, siccome secondo me il Novecento non è finito, e anzi aggiungo, non solo non è finito, ma non dimentichiamoci che l'ultima cosa che ha detto lui e che riguarda l'oggi, che io condivido, e non scherziamo, perché il precipitare di questa tendenza alla guerra, chiamiamola così, sta assumendo un galoppo, ed è vero, per quanto sia possibile vedere, di propagandare e far conoscere la necessità che dovrebbe cercare di fermarla prima che si scateni, perché dopo non è così semplice la faccenda. Qualcun altro? Allora, io volevo dire un po' innanzitutto questo, che la pubblicazione di questo libro mi ha fatto un piacere incredibile, perché è bellissimo, avete fatto una cosa molto bella, perché è un libro scritto un discorso fatto nel Parlamento nel 1920, ma pone problemi politici che abbiamo oggi, né più né meno, e secondo me salta fuori anche dall'impostazione che dà Misiano di questa faccenda. E anche tu nell'introduzione vai su un punto che è centrale, il passaggio dal fatto individuale della diserzione al fatto collettivo di trasformare la guerra imperialista in guerra di classe, e citi uno dei più bei, non uno, forse il più bel libro di diserzione contro la guerra, che è stato scritto da un antisemita fascista che era Céline, all'epoca. Viaggio al termine di una notte, che è un libro meravigliosamente contro la guerra, bisogna avere il coraggio di dirlo. Tra l'altro sono stati ritrovati negli archivi, è stato ripubblicato recentemente Guerra, che è altrettanto bella, sì. E sono atti di diserzione individuale contro la barbarie capitalistica della guerra. Poi lui era un fascista, dobbiamo prendere atto di questa contraddizione, lasciamo da parte. È importante questo libro e già non viene capito, perché di Misiano si parlava già. C'è un documentario, mi sembra del 2005, che parla delle sue vicende cinematografiche in Calabria su questa cosa. Adesso lo fanno anche nei viaggi in America per tutta questa faccenda del cinema. E ho letto una recensione, mi sembra sì, su Fata Morgana, della pubblicazione del libro, in cui si diceva lui ha avuto coraggio di dire no, però di fronte a una guerra giusta come quella in Ucraina, cosa avrebbe detto? Forse no. Il problema che Misiano ci spiega in questo libro è che la guerra in Ucraina non l'avrebbe valutata come una guerra giusta, ma come una guerra imperialista su cui bisognava fare disfattismo. E questo è il cuore del problema che pone Misiano. In questa cosa è bellissima come di fronte all'impossibilità materiale, fisica, lui quando ha fatto l'introduzione ha detto alcune cose, ma Misiano quando è in caserma dovrebbe addestrarsi per andare a combattere al fronte, non gli fanno fare un giorno di addestramento, viene messo in punizione, viene messo in camera manicomiale, eccetera. La cosa che gli fa saltare proprio, la cosa probabilmente è che a differenza di tutti gli altri soldati che uscivano la notte prima di partire per andare in famiglia, lui no, perché è Misiano. Se vogliamo anche alla fine, quando farà il discorso, per tutti gli altri disertori ci fu l'amnistia del governo Nitti, per Misiano no, doveva essere condannato e massacrato. E questo legame, diserzione, trasformazione della lotta di classe in guerra di classe, nella guerra per cercare di impedirla, e giustamente diceva Luca prima, è stato tentato in Italia e c'era una tradizione ancora precedente, la guerra di Libia. Nella guerra di Libia il proletariato italiano col PSI scende in piazza. È stato poi fatta la guerra sia in Libia sia dopo, ma ci si lascia l'eredità di come porre questa questione oggi. L'accelerazione verso la terza guerra mondiale è grossa e noi alle volte non ci rendiamo conto che se anche in Italia oggi è stato sospeso il servizio militare, l'articolo 78 della Costituzione dice che c'è un obbligo di difesa della patria e dei suoi confini, uno. Due, c'è un decreto immediato del Presidente della Repubblica che ristabilisce l'obbligo di leva dai 18 ai 45 ad eccezione di guardie carcerarie, poliziotti e vigili del fuoco. Quindi è questo lo scenario che noi abbiamo di fronte. Il libro di Misiano ci parla di come affrontarlo. L'esperienza di allora, secondo me, ci dice come affrontarla oggi e come andare oltre, sostenendo la diserzione che c'è in Ucraina, in Russia, in Bielorussia, oltre alla semplice diserzione individuale, farne un movimento collettivo. In questa corsa alla guerra, chiudo qua perché ho già parlato troppo, in questo momento è importantissimo denunciare la polizia etnica che c'è in Palestina, l'allargamento della guerra, però purtroppo dobbiamo rilevare come elemento politico che in queste manifestazioni della guerra in Ucraina non si parla, mentre è strettamente connessa. E la guerra in Ucraina ci sta portando, alla terza guerra mondiale. Certo. Io posso dire una cosa? Certo. Per un po' la domanda di Tiziana prima. Ovviamente, fra la prima e la seconda guerra mondiale succede qualcosa. Succede qualcosa. Non possiamo dire quale sarebbe stata la posizione di Misiano, però c'è un cambiamento d'epoca. È quello che appunto non capiscono molti disertori della prima guerra mondiale, perché molti disertori della prima guerra mondiale, in nome appunto, io dico, di una morale e non di un'etica, è quello che ho cercato di dire prima, magari in nome di una morale, quindi di un principio astratto, dicono: noi siamo contro la guerra, c'è Hitler in Francia, noi non facciamo la guerra perché siamo contro la guerra. Jean Genoux, che non può essere accusato, a differenza di Céline, di essere un fascista, viene accusato di collaborazionismo, perché appunto ha detto: io non voglio fare la guerra contro i tedeschi, perché sono contro la guerra. Per Céline, secondo me, il suo nazismo io lo spiego anche per il suo attaccamento alla pace, paradossalmente. Ovviamente questo sarebbe un discorso da sviluppare, perché all'altezza del viaggio al tempo della notte, secondo me Céline non era ancora un fascista. Lo diventa proprio perché non vuole fare la guerra. E in quel momento fare la guerra significava ovviamente fare la guerra a Hitler. E quindi lui decide di collaborare, poi vabbè, finisce nell'infamia. Cosa voglio dire con questo? Che invece in Misiano non c'è assolutamente un'opposizione alla guerra in termini astratti. Misiano, lo diceva bene Marco prima, Misiano non è pacifista Misiano, e non è neanche contro la guerra. Quindi l'attualità di questo testo di Misiano, che appunto lui ci dice che un giorno posso disertare, appunto lui nella caserma di Cuneo ha potuto disertare perché quella era la giusta posizione, però io il giorno dopo sono nelle strade di Berlino con le armi in pugno a fare la mia guerra. Allo stesso modo una cosa è una guerra di tipo interimperialistico come la prima guerra mondiale, e un'altra cosa è invece combattere contro il nazismo, contro il fascismo. Che poi alla fine pure là bisognerebbe discutere che cosa è la guerra partigiana. Magari anche la guerra partigiana è una forma di diserzione, no? Perché io esco dai ranghi del mio esercito e mi organizzo per bande per combattere contro il fascismo e contro il nazismo. Quindi io che voglio dire con questo? Dico che perché secondo me è interessante la posizione di Misiano? Perché, e questa è la nostra situazione di oggi, Misiano appunto non si oppone per principio alla guerra, diciamo sì, moralmente alla guerra. Misiano dice: noi siamo in guerra. Che facciamo noi nel momento in cui siamo in guerra? Perché se io vado dal soldato e gli dico: noi siamo per la pace, il soldato non lo mobilito, così come non mobilito l'operaio che sta nelle retrovie, che sta costruendo le armi per quel soldato, non li mobilito con principi astratti, lo mobilito se gli dico: per fermare quella guerra l'unica strada che abbiamo è quella di intensificare una guerra, quella di rovesciare quella guerra in un altro tipo di guerra. Questa prospettiva è una prospettiva, diciamo così, politica concreta. Cosa fare quando siamo dentro la guerra? È la questione appunto della mobilitazione dentro la guerra. La parola d'ordine di Zimmerwald era trasformare la guerra imperialistica in guerra civile. E questo, secondo me, ovviamente, cambiati i tempi, eccetera, eccetera, è anche un modo ancora oggi per intervenire dentro i conflitti. La figura di Misiano è giusto che venga in questo momento rivalutata. è vero che è stata dimenticata. Io credo che forse chi aveva scritto un bel testo su Francesco Misiano era la Bortolotti, che aveva scritto un testo che si chiamava appunto Vita di un internazionalista, un libro degli anni 70, credo, pubblicato forse per errore dagli editori riuniti. Io credo che sia importante una cosa, e in questo ho delle perplessità rispetto al tuo modo di vedere la differenza tra morale e etica, e soprattutto che non ne facesse una questione di principio. Misiano era un militante rivoluzionario. Lui era consapevolissimo, coscientissimo di tutto ciò che stava avvenendo. Io credo che se l'Italia non entrò in guerra nel 1914 è perché c'era stata la Settimana Rossa. Era stato perché c'erano delle lotte violente in cui la classe operaia, il proletariato, era in piazza ed è rimasto in piazza facendo tremare la borghesia. L'Italia ha tardato la sua entrata in guerra fin quando non era stata convinta di poter mobilitare le masse su una prospettiva di carneficina. Francesco Misiano era consapevole di tutto ciò. Quando lui diserta, non è una questione individuale, è l'espressione di un movimento collettivo che si riflette personalmente. In questo io credo che noi dobbiamo essere più precisi. Non siamo solo per il disfattismo rivoluzionario, anzi siamo fermamente per il disfattismo rivoluzionario, e in questo senso noi siamo perché ci sia l'organizzazione che determina la possibilità che ogni individuo che diserta sia pronto ad affasciarsi insieme ad altri individui, perché si tramuti l'aspetto personale, la diserzione, in un aspetto collettivo, il disfattismo. Ma chiaramente siamo completamente solidali con tutti coloro che si rifiutano personalmente, quale che sia la ragione che li porta a rifiutare personalmente la guerra, che si rifiutano a partecipare ad una carneficina in cui i proletari si massacrano per la propria borghesia, o per il proprio Stato, o per il proprio potere. Siamo contentissimi finalmente di poter leggere che tanti soldati ucraini, non solo, scusate, andiamo con ordine, tanti ucraini che vengono mobilitati si rifiutano di partire e quindi debbono essere inseguiti dai poliziotti o dagli sgherri del regime che li debbono andare a cercare, e ci sono persone che cercano di opporsi a che questi vengano costretti a partecipare alla carneficina. E siamo ben felici di essere venuti a conoscenza del fatto che ci sono interi reparti che disertano, che si rifiutano di combattere. Non è un caso che adesso si dice che l'esercito ucraino non ha più materiale umano. Certo, cerchiamo di ricordarci che cosa è successo in Ucraina dal 2014 in avanti. Quanti milioni di ucraini sono dovuti espatriare perché l'Ucraina diventasse quello che è diventato, la serva sciocca dell'imperialismo europeo. Cerchiamo di ricordarci che milioni di persone sono andate via, che una parte sono finite nella macelleria, che non hanno più uomini per poter dare il ricambio a quelli che sono sul fronte. E tra un po' noi vedremo che arriveranno i nuovi adepti pronti per la guerra. Li manderanno. I francesi si sono già dichiarati disponibili a mandarli. Gli inglesi non vedono l'ora di mandare i contractors o altri elementi di questo genere. Peraltro ci sono già, quindi. I russi hanno lo stesso problema. Non è un caso, se è vero, poi lo andremo a vedere, che ci sono i soldati nordcoreani, ma non è importante. Noi oggi ci troviamo, giustamente Francesco sottolineava questa cosa, in un precipitarsi della crisi verso la terza guerra mondiale. Ne abbiamo le espressioni concrete in diversi ambiti. Il Medio Oriente è qualcosa di incredibile. Avete visto adesso la Siria. Gli americani approfittano anche di questo momento per scatenare anche quella situazione. La loro volontà è quella di riuscire a creare una situazione in cui si debba procedere sempre più precipitosamente verso quella che per loro è l'unica soluzione che li tenga fuori dalla loro crisi, e cioè andarsene a poter combattere in Asia tranquillamente. Qual è il nostro compito? E noi qua abbiamo un problema, perché vedo dalla presenza che siamo tutti fuori dalla leva, e quindi almeno quelli che ci sono qui siamo tutti fuori dalla leva. E questo è un problema, perché noi facciamo un discorso che va rivolto alla gioventù. Però io non ho, come dire, non sono pessimista da questo punto di vista, perché credo che, così come nel secolo breve ci sono state le espressioni della gioventù che si è battuta contro la guerra, è vero che in Francia fino al giorno prima hanno fatto manifestazioni e poi sono partiti, sì, è tutto vero, tutto verissimo. Però noi abbiamo accumulato quell'esperienza. Quell'esperienza ci ha, come dire, fatto capire tante cose. Una tra le cose fondamentali da capire è che se non c'è un'organizzazione rivoluzionaria, è chiaro che il rischio che si ripetano le situazioni come quella che ha preceduto la prima e la seconda guerra mondiale si ripresentino. È fondamentale che noi si riesca a, come dire, consegnare alla gioventù una prospettiva, facendo fin d'ora presente e ribadendo che ogni guerra in questo momento, nell'epoca dell'imperialismo, è una guerra reazionaria. E se ogni guerra è reazionaria, e in questo momento le guerre sono tutte reazionarie, i giovani, la gioventù che non vuole partecipare a questa macelleria, deve disertare, oppure deve, anzi, meglio, organizzarsi per il disfattismo rivoluzionario. Venga. Ma io sono venuto qui al microfono per fare delle domande a me stesso. Prima di venire me le sono fatte, perché vengo qui a parlare, e rispondo alle mie, che sono semplici. Prima, per salutare un po' di compagni che ci vediamo una volta ogni 2 o 3 anni, li saluto, buonasera. Secondo, perché ultimamente sto partecipando a varie assemblee, conferenze, dibattiti, e chissà perché mi interrompono sempre. A un certo punto dicono basta, non puoi parlare più. Tutti stalinisti. Penso che qua si può parlare tranquillamente, no? Credo. Ecco, questo. L'altro aspetto, che è quello, come possiamo dire, inerente alla presentazione del libro e le argomentazioni che ha fatto Marco, Francesco, e in pratica un po' quello che affligge me, ma affligge un po' tutti i compagni della sinistra rivoluzionaria. Che fare? Non è che voglio citare Lenin, ma penso che quello è sempre l'argomento principe di tutto. Che fare? Io condivido l'intervento che ha fatto il compagno di Rivoluzione Comunista, perché in pratica è quella l'impostazione tecnica, pratica, che si deve dare un intervento oggi nella massa. Aggiungerei un aspetto molto per me preoccupante, che è questo. Bene, le guerre si combattono perché nel mondo ci sono le nazioni. Noi abbiamo letto l'imperialismo, la fase estrema del capitalismo, sappiamo cosa vuol dire. Oggi ci troviamo di fronte a uno scontro, terza guerra mondiale. L'ultimo intervento che ho fatto in una, quello dei CAR, che ho detto, visto che le storie vanno così, siamo disorganizzati, non riusciamo a mettere in piedi niente, non penso che riusciremo a opporci a questo sistema, assolutamente. Quelli che sopravviveranno alla terza guerra mondiale forse organizzeranno la società per il comunismo. Beh, si sono un po' preoccupati, ma forse è proprio così. Mi auguro di no. Io dico sempre ai giovani, e la mia vita l'ho fatta, mi dispiace per voi che forse vedete anni brutti. Bene, questo elemento qua del nazionalismo, che praticamente oggi in questa fase vede le potenze più forti al mondo, l'America, sappiamo che ha perso la sua egemonia indubbiamente, la Russia che con la Cina, che poi sappiamo che la Cina vuole fare le scarpe alla Russia, cioè, ci sono due blocchi, questi due blocchi si confrontano, si scontrano da sempre. Oggi la crisi del capitalismo ha portato a uno scontro ancora più forte. Abbiamo visto l'Ucraina, non voglio dare giudizi, è evidente chi è che è a favore della guerra. Ci dispiace che sotto le bombe muoiono donne, bambini, soldati, anziani, cani, gatti, muoiono tutti. Succede in Ucraina, succede anche in Palestina. Questo aspetto qua della Siria è importante, perché sembrava che insomma la jihad islamica fosse stata eliminata, non c'era, invece nasce anche un'altra volta la jihad islamica. Insomma, io ho pensato e ho anche scritto qualche volta su questo, che in pratica questi due fronti di guerra, anzi addirittura apro la parentesi, ho pensato perché ho letto da qualche parte che l'8 ottobre ci fosse dietro anche i servizi segreti russi alla storia dell'attacco che hanno fatto Hamas a Israele, cioè un servizio segreto come il Mossad che conosce tutto nel mondo, non sa quello. Ma comunque, senza polemizzare o dire cose che non possono essere gradite, io penso che, come tanti compagni hanno anche espresso, che questo fronte medio orientale serve a bilanciare un po' lo scontro che c'è in atto. La Siria, insomma, e questo sappiamo, poi c'è l'Etiopia, l'Ucraina, non so, tanti, tanti fronti che mettono, che per interposta persona fanno confrontare questi due paesi imperialisti. Ma siccome poi volevo, se è permesso, poi anche col tempo, volevo sapere, anche da altri compagni che parleranno, ma soprattutto volevo saperlo anch'io, me lo dico, perché magari se lo penso e basta, poi lo dico, sai che parlare anche terapeutico. Bene, il nazionalismo. Io ho partecipato a un'assemblea, c'era cioè anche il compagno là di un Mazzeo, un tale Mazzeo, che ha scritto un libro che io ho comprato, l'ho letto, La scuola va alla guerra, e sembra, nessuno lo sa, ma nelle scuole italiane c'è l'esercito, anche nell'Asilo Unito, portano i bambini a vedere le armi. L'ultimo film che ho visto su Israele, gli israeliani portavano i bambini dietro le mitragliatrici. Insomma, la scuola va alla guerra, mentre noi siamo tutti vecchi qua, non sappiamo che fanno i giovani. Il governo lo sa cosa deve fare, prepara i soldati alla guerra. C'è poco da fare. In Italia è così. Ogni azienda che fabbrica le armi ha fatto dei convegni con le università, con i licei, con le scuole medie, per avvicinare i futuri soldati alla guerra. È nazionalismo, no? Ho visto qualche documentario sulla Palestina, sugli israeliani. Beh, insomma, sapete che appena è partita questa guerra, gli israeliani, che non sono tutti guerrafondai, non tutti sionisti cattivi, ma non sono nessuno cattivo, magari per il sistema che si porta a fare quello, si volevano opporre alla guerra, hanno fatto anche delle manifestazioni, li hanno arrestati quasi tutti. Man mano non è andato più nessuno alle manifestazioni, a Israele, in quei paesi là. Bene, in quello stato là. Bene, quando ho visto questi documentari, la cosa che mi ha saltato all'occhio di più, non questi degli scioperi, che in tutte le scuole, in tutti i posti dove vengono educati i giovani, ogni tanto viene menzionato la Shoah e si fa un minuto di silenzio. Un minuto di silenzio. Si prega per i morti che conosciamo tutti, no? I milioni di ebrei gasati nelle camere a gas. Io ho avuto la fortuna di stare in Giappone una ventina di giorni, no? E a Hiroshima sono stato 4 giorni e tutti e 4 giorni sono andato, si chiama il Museo della Pace, una cosa del genere. Ma perché ve lo racconto? Perché se parliamo di nazionalismo e parliamo di esercito, al di là dei disertori, che sono pochi, l'esercito purtroppo è fatto da uomini e donne che vanno volentieri a combattere. E come li forma il sistema? Bene, lì in Giappone tutti i giorni c'era una scolaresca. Perché io sono andato tutti i giorni. A Hiroshima sono andato. E un giorno, ma ce n'erano mai migliaia di giovani che pregavano per i morti della bomba atomica. Ma che fanno lì? Fanno accademia, preparano la gioventù alla guerra, preparano la gioventù a difendere la pace. Perciò questo elemento, in questi ultimi anni, che io non sono un intellettuale come voi, insomma come tanti, faccio attività sindacale, forse anche male, però questo problema me lo pongo perché insomma sono un comunista e quando dormo la notte mi sveglio e dico: ma cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Ecco, quello che facciamo qua è utile, ci mancherebbe altro. Io non è che dico che dobbiamo eguagliare quello che fa il sistema della borghesia, andare coi giovani, però è quella la strada. C'era un gruppo qualche anno fa che si chiamava Agitprop, agitazione e propaganda. Ecco, dovremmo noi fare questo, agitazione e propaganda, andare tra i lavoratori, alla metropolitana, dappertutto. Ma lo dico, lo so che non lo possiamo fare, neanche io lo faccio più. No, io lo faccio. A dire come la pensiamo ed illustrare alla gente qual è il problema che abbiamo di fronte. Abbiamo un problema di fronte oggi insormontabile. Cioè, io guardo molto il passato perché, come si dice, chi si dimentica il passato è costretto a riviverlo, no? E su questa questione, non so, è ancora vivo questo Misano qua? È vivo ancora? Non lo conosco, no. È morto. Non lo conoscevo, ma mi dispiace se è morto, ma beh, insomma, un compagno è tutto. Sul problema, lo so, ma è che non lo sapevo. Sul problema della diserzione, io ho guardato un po', no? Bene, Seconda Guerra Mondiale, centinaia e centinaia di tedeschi sono passati con i partigiani. Ho guardato ultimamente, sto vedendo dei film, della Prima Guerra Mondiale, russi e tedeschi che fraternizzavano al fronte. Ho visto l'esercito russo che sparava contro i propri generali. I soviet erano fatti da operai, contadini e soldati. Beh, insomma, la diserzione certo che è utile, però bisogna organizzarla, compagni, bisogna fare una diserzione di massa. Bisogna andare in guerra, prendere il fucile, se me lo danno a me non lo mollo più col cazzo. Ma bisogna organizzare gli operai, i contadini e i soldati contro il proprio capitalismo. Allora, siamo a quei livelli? Assolutamente no. Io quando mi guardo quei film sulla rivoluzione russa, minchia, mi aggradano proprio, perché abbiamo quasi il dualismo di potere, no? Gli operai sono quasi forti come la borghesia. Siamo a questo livello qua. Siamo a questo livello. Noi combattiamo, dobbiamo combattere, perché questa è la strada. A questo punto io non è che voglio parlare per frustrarmi o frustrare voi, non è quello il mio obiettivo. Il mio obiettivo è, come possiamo dire, efficientizzare un po' le risorse che abbiamo. Io intervengo in una decina di situazioni, operai, maggior parte donne, un paio di cooperative della logistica, sono tutti uomini musulmani, poi tra l'altro addirittura, un bel casino. Compagni, quando andiamo a parlare di questo alle lavoratrici, ai lavoratori, la Palestina, l'Ucraina, il capitalismo, non gliene frega niente. Non gliene frega niente. Anzi, si incazzano. Ma qui abbiamo il ticket mensa. Allora, cosa manca per farla finita così non vi annoio più? Io sono convinto di questo. Il sindacalismo di base ha tagliato la testa a qualsiasi prospettiva rivoluzionaria della classe operaia. Oggi lavoriamo tutti nel sindacalismo di base, abbiamo tolto linfa vitale a quello che erano gli anni 70, io sono arrivato qua e avevo 15-16 anni, gli anni 70, ogni sera c'era un'assemblea politica, un sacco di gruppi, andavo in fabbriche e parlavano di rivoluzione. Oggi non parlano assolutamente di niente più, parlano solo di anzi, di minchiate. Allora ecco la strada dove dovremo incamminarci, ecco i nostri limiti. Ora non è che dico che a Marco domani andiamo a distribuire la Cadorna, ci mancherebbe altro, ma quella è la strada. Noi dobbiamo preparare i giovani, soprattutto i giovani, spendere tutte le nostre energie per mettere in pratica quel discorso di agitprop, agitazione e propaganda, per un progetto semplice: diserzione, lotta al sistema del capitale, ma organizzato però in un partito, noi 5 Stelle, un partito vero, rivoluzionario. Questo secondo me è la mia idea. No, voglio dire, ci sono dei passaggi che sono anche inevitabili, voglio dire, quando si parla di organizzazione, ma non l'organizzazione, allora per organizzazione intendo dire non io, Mamma e te tu, perché sennò vabbè, di organizzazioni così ce ne sono così tante che nella stragrande maggioranza dei casi non servono a nulla. Cioè, le organizzazioni sono anche una conseguenza, ma la conseguenza è relativa al fatto che vi siano movimenti e mobilitazioni. Cioè, voglio dire, negli anni 70 come vai a finire, come mai, faccio un caso, il primo che mi viene in mente, Lotta Continua alla fine riesce a fare un quotidiano, però ci deve stare la gente, perché se no, se io e te ci mettiamo in mente di fare il giornale, vabbè, lo facciamo, lo leggi un po' te, lo leggo un po' io, poi lo do a mia sorella, a tua zia e vabbè. Quindi voglio dire, noi qualcosa possiamo fare, possiamo sapere, però se la stragrande maggioranza cerca un posto al sole, così come quegli immigrati di recente o meno recente venuta qui, che tu contatti periodicamente per il lavoro sindacale, nella stragrande maggioranza dei casi, nella loro testa c'è quella di poter diventare come noi, non la rivoluzione, non so che cosa, è comprarsi la casa, non lo so, hai capito? Ma è normale che sia così. L'insegno e con i ragazzi ho a che fare. Voglio dire che c'è stato nel mezzo tanta roba, i ragazzi non saprebbero neanche localizzare i luoghi del conflitto, non sanno dove sono, non li sentono, non li conoscono, non sanno di che cosa si sta parlando se non nell'immediato presente che gli si propone come conflittuale, difficile e senza prospettive. Io partirei di lì, non so come dire, di fronte al caso Corvetto, se mi permettete un'escursione, che è stato pornograficamente presentato, no? Perché lì c'è stata veramente, aveva ragione ieri De Luca in una trasmissione a dire, un momento di dolore, dolore immediato di una condizione tremenda. Questi ragazzi iniziano a capire cos'è il conflitto, cos'è la condizione di classe, cos'è non essere dentro una società a partire dal loro presente. E quindi, come dire, no? La questione dell'organizzazione si pongono come questioni che sempre, perché questo è accaduto anche nella storia, è accaduto nel Biennio Rosso, è accaduto, ma che si producono nel mentre delle condizioni storiche permettono di produrle. Allora, non è un caso che non ci siano qui ragazzi, perché i ragazzi in questo momento stanno facendo fatica a sapere dove sono, dove vanno e dove stanno. E io che li ho come miei ragazzi, se devo parlare con loro, e faccio anche tutte le annotazioni su quello che accade, non le sentono prossime, non le possono sentire prossime, perché non le hanno conosciute, hanno dietro almeno tre, voglio dire, decenni di ignoranza indotta e conclamata, voluta, per cui non lo so, per dire, io con loro ragiono sui planisferi, sulle geografie, perché i luoghi hanno un senso, hanno una storia, un perché. E noi non ci arriviamo, signori, altrimenti, perché diventa astratto il bisogno del palestinese se non è uno che dentro la comunità araba è questa cosa, la mastica nelle famiglie. È astratta la questione ucraina. Io ho degli alunni che hanno rifiutato la nazionalità per non essere presi dentro la rete della prescrizione obbligatoria. Quindi queste sono situazioni concrete, non è che non lo sanno, loro sanno, ma sanno a partire, e da lì secondo me noi con un atto di umiltà, un bagno radicale di umiltà, dobbiamo ripartire. Noi non sappiamo dove loro siano, e se noi non intercettiamo questo passaggio epocale, perché qui, diciamoci l'ultima cosa poi vi abbandono, l'accelerazione delle trasformazioni è velocissima. Succede in un decennio quello che prima succedeva in un secolo. Quindi come si fa se non in una relazione umana disponibile all'ascolto e alle urgenze del bisogno e delle necessità a riposizionare. Poi io dopo mi pongo il problema di come ci organizziamo, poi sono una strutturata per cui figuriamoci, ma io, non loro, e non posso passare la struttura prima del problema. Grazie. Oh, se c'è qualcun altro, mi sembra che insomma... No, per uscire un po' dal, insomma, dal pessimismo sui giovani, cioè, no, bisogna anche sottolineare che c'è stato nei campus americani un movimento importante contro la guerra, cioè contro la guerra, cioè non è una guerra quella in Palestina, contro l'aggressione, contro il genocidio. E là è stata una generazione nuova, no? Di ragazzi, ragazze che hanno anche, insomma, rischiato carcere, repressione violenta. L'abbiamo visto tutti, no? Le immagini dei campus americani. È interessante, no? Sapere adesso cosa succede di questo movimento. Se è finito, appunto, come una vampata, però il movimento c'è stato ed è stato forte nei campus americani. Io, cioè, ovviamente inventare una tradizione significa la speranza che appunto si ricuciano i fili di un discorso, e quindi magari se qualcuno di questi ragazzi prende Misiano in mano, oppure prende Rosa Luxemburg, i siti contro la guerra, può essere interessante. Però appunto il movimento deve poi magari non organizzarsi, che è una parola forte, però appunto deve installarsi, no? Però c'è stato qualcosa da parte dei giovani, si sono mossi i giovani, no? Nelle università contro il genocidio a Gaza. E quindi non è, come dire, vabbè, non tutto è finito, ecco. Allora, no, aggiungo un'altra considerazione molto veloce, perché è proprio vero che sotto certi aspetti si parte dall'inizio, no? Poi chi sa qualcosa è avvantaggiato perché può, però la grande differenza, adesso mi riferisco all'Italia ma si può riferirsi a altri paesi degli anni 70, che noi, siccome c'eravamo, ce ne ricordiamo, era relativa al fatto che comunque tutti questi movimenti, a partire dai movimenti dai diritti civili o dai diritti sindacali, ottennero risultati eclatanti. Insomma, facciamo l'esempio: il divorzio, l'aborto, statuto dei lavoratori. Statuto dei lavoratori. Per quanto riguarda la classe operaia, e non è un caso che se si va a vedere poi un diagramma, le lotte che poi coincisero con la fine di queste lotte, triplicarono i salari. Oggi, se vai a raccontare a qualcuno in giro questa roba qua, se è giovane, manco te crede, perché oggi qua triplicano la somministrazione e non ti danno niente, no? E questo non sembra, ma diventa particolarmente difficile, perché molte lotte, chiamiamole così, molte sono anche in vicoli ciechi, senza speranza, perché se tu chiedi, insomma, facciamo l'esempio così eclatante, l'aumento ai pensionati di 3 euro al mese, capisci, io faccio la lotta, no, uno non fa la lotta, dice guardi, lasci stare che non bevo più il caffè, no? Ecco. No, però attenzione, perché e fa parte anche della possibilità di vedere il futuro, e il futuro per i giovani che sono sommersi e dentro i social, secondo me invece nella realtà sono molto più soli di quanto noi invece avevamo relazione, avevamo amicizie, avevamo amori, eccetera eccetera eccetera, di quegli anni. Ma perché comunque qualcosa c'era, il risultato. Non pensavo mai di prendere la parola, e in particolare su questo argomento. Il libro è molto bello, l'ho preso, l'ho letto, complimenti. Grazie. La presentazione mi è piaciuta. No, volevo parlare della categoria, perché secondo me qualcosa manca. Cioè, i giovani non è che sono un oggetto astratto che noi collochiamo in un tondo e possiamo dire che sai, non sai. I giovani sono attraversati, per esempio, da una divisione di classe così come gli adulti. Allora, i giovani non sono necessariamente gli studenti delle università americane, non sono necessariamente gli studenti delle scuole nella buona... cioè, e ci sono dei giovani proletari, sottoproletari, che sanno perfettamente sulla loro pelle quello che gli sta succedendo, e sono delle persone con cui effettivamente i rapporti sono saltati completamente. Forse è successo sempre nella storia, però quando si parla di questo bisogna considerare che non è che noi abbiamo una cosa che è il giovane, cioè non è una questione di età, è una questione di età e che va collocata socialmente in una società che ha una divisione in classe fortissima, in cui la scuola è una scuola di classe, la salute è sempre di più, e quelli, diciamo, dei quartieri proletari queste cose le sanno. A mio parere, per quella che è la mia esperienza personale, benché sia vero che sono attraversati dai social, non sono neanche così soli. Il problema è che non ci comunichiamo, ecco. Ma non so se è necessariamente un difetto. I giovani di oggi, allora ho sentito proprio dopo i fatti del Corvetto una intervista a un ragazzo del Corvetto, un egiziano, un italiano, non mi interessa la nazionalità, che tra l'altro parlava un italiano perfetto coi congiuntivi, per cui aveva fatto un'ottima scuola e soprattutto aveva capito, e che diceva una cosa chiarissima. Dopo aver detto cos'è il Corvetto, dice: ma tanto qui chi deve decidere lo fa per sé, quando, se, come e contro chi vuole. Per cui aveva chiara una condizione di classe che divideva la sua esistenza da quella di chi esercita il potere a Milano, non solo dei ricchi ma anche del comune, piuttosto che dei partiti, delle associazioni benefiche che ci dominano. Detto questo, c'è anche un altro fatto di massa che è molto importante. I ragazzi a cui tu ti riferivi, quando si pongono davanti al lavoro, hanno un'idea ben precisa, che sono sfruttati, ma proprio sfruttati brutalmente. Non lo dicono dal punto di vista di Karl Marx, ma lo capiscono. Non solo perché il salario è quello che è, ma perché le condizioni di lavoro e il dominio reale del padroncino, del padrone, della cooperativa o del grosso padrone lo sentono sulla loro pelle. Detto questo, bisogna avere fiducia in questo fatto, perché la generazione di giovani precedenti, che oggi sono quarantenni, è stata un esempio di dedizione al lavoro, di spremitura e di eliminazione dal lavoro. Per cui la generazione di oggi, anche se i giovani sono meno numerosi di quando eravamo noi, è una generazione pronta a muoversi, se capisce, come dovrà capire, che il sistema è in una crisi profonda. E poiché la crisi del sistema attuale imperialistico, e in particolare di quello italiano, è notevolissima, perché si parla di sopra di un potere assoluto dei banchieri, dei finanzieri, ma se io fossi un finanziere di Wall Street, so che vado a letto stasera e che ho 100 miliardi di dollari di portafoglio, non so se li avrò domani, perché basta che perda una banca un miliardo di dollari e poi, come il caso Lehman insegna e sarà più grosso ancora, si va a catafascio. Quindi non guardiamo i giovani con gli occhi della nostra generazione, anche perché così facendo ci riveliamo un po' conservatori. La nostra generazione ha avuto la fortuna e la sfortuna di avere una classe operaia che, come diceva Marco, con grandi lotte economiche ha migliorato la sua condizione in una fase eccezionale del capitalismo. Ma questa classe operaia non aveva, tranne alcuni piccoli comparti, una visione politica avanzata, ma aveva una visione di difesa della sua condizione di esistenza in un sistema in sviluppo. Questa classe operaia tradunionista non dobbiamo rimpiangerla, dobbiamo dare a loro, quelli che lavoravano negli anni 70, 80, 90, il merito di aver fatto delle lotte sindacali importanti, ma non esaltiamoli. La situazione oggi, il conflitto di classe oggi, è molto più acuto, molto più profondo e molto più esplosivo. E questa gioventù, a Milano come a Napoli, a Parigi poi non parliamone, perché abbiamo avuto gli anni dal 2005 in Francia, cioè quello che muove la situazione francese non è la crisi della borghesia o di questo simpatico elemento finanziario Macron e della Le Pen eccetera, è la crisi sociale francese, che è di una profondità enorme. Quindi diciamo che possiamo essere, non dico ottimisti, ma dobbiamo vedere la gioventù con gli occhi della crisi profonda del sistema capitalistico e della possibilità di creare una società migliore. C'è ancora qualcuno? Come? E c'è ancora qualcuno che vuole venire a dire qualcosa? No, volevo, volevo che potessimo, adesso non possiamo, ma che c'è un tema che mi ricordo, dov'è Francesco? Francesco aveva sviluppato una serata qua, quando lui aveva fatto la serata su il controllo del Mediterraneo, e, vabbè, insomma, e Francesco disse ci dimentichiamo che questa è una società che sta collassando, che sta decomponendosi, e noi non siamo capaci di immaginare la fine di questo mondo attraverso una decomposizione, ma speriamo sempre che questo mondo lasci delle eredità per poter andare avanti in qualche modo. Io sarei più pessimista, cioè dobbiamo affrontare la decomposizione sociale e pensate anche personale, quanti sono i casi di suicidio? Sono aumentati? E quanti sono le patologie di tipo psico, bam bam bam. Quanti sono gli abbandoni scolastici, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso io non mi ricordo esattamente com'era la questione, però è evidente che quella, la parola che tu hai usato, la decomposizione, fa sì che la precipitazione di questa crisi sempre più grave dia come prospettiva, a differenza di quanto dicevo prima, non so, per fare l'esempio degli anni 70 in Italia, le lotte e i diritti e gli aumenti ottenuti, che nella realtà invece tutta questa proliferare di del disagio, della miseria, perché poi non dimentichiamoci una parola, c'è la miseria crescente, questa è la caratteristica, perché se no non si farebbero multinazionali e miliardari, no? La famosa problema 1%, 99%, che diano come prospettiva che cosa? Una vita senza senso, questa è la questione, per tutti in generale, salvo quelli che dividono le azioni o hanno camarille e lobby varie. chiaramente dentro una vita senza senso molti non la sopportano, no? E quindi dove è finito? Eccolo lì. molti è chiaro che possono arrivare alle forme più estreme. Allora, pensa soltanto l'utilizzo degli psicofarmaci. Certo. No, venga, come professoressa abbiamo bisogno anche di queste... Dal crack finanziario si va alla guerra. L'Europa è al collasso, cioè non è che stiamo ragionando su un orizzonte muto, l'orizzonte è chiaro, c'è una crisi strutturale gravissima in corso che tocca i settori fondanti dell'economia di ogni Stato, nazione, si chiami come volete voi. Noi stiamo monitorando il disagio sociale, io credo che le banlieue parigine in piedi da ormai decenni di mobilitazioni parlino di altra cosa delle lotte che hanno intercettato, cioè nuit debut, le retrette, cioè le pensioni eccetera eccetera, ma lo scenario che oggi sta accelerando è il crack economico dell'Europa, primo crack, crack geopolitico numero due, siamo nell'insieme di due superpotenze che stanno spingendo in direzioni in cui l'Europa è l'elemento debole. L'eurocentrismo è già finito nel Novecento, il neoimperialismo non ci tocca perché chi doveva prendere mano sull'Africa e altrove, giusto per porre tre questioni internazionali, le ha già lì. Tre questioni che ci dicono del perché di questo nervosismo, di questa accelerazione, di questa preoccupazione. Siamo l'elemento debole. Lì a destra c'è una porta. Totò, vai vicino a quel ragazzo là con il cappello, che te lo dice. Chi è che... Ah, questo è l'ultimo intervento, perché c'è anche un condizionamento, non è possibile, perché ha pagato l'ingresso, va bene. Introduco un argomento che sembra fuori luogo, ma che è quello dei NEET, Not Employed, Educated, Trained. C'è una generazione di quelli che non hanno, oppure poco li frega, dell'educazione, del lavoro e della formazione, Employment, Education, Trained. Questi si... pongono, secondo, c'è stato uno scambio fra me e Sergio Bologna su questo tema, e lui dice questi si pongono fuori, come dire, provate a recuperarci, come fate a recuperarci? Avete delle proposte? Employed, education, in realtà le tre grandi istituzioni del lavoro, dell'educazione e dell'addestramento sono andate in crisi. Tornando alle crisi, noi parliamo spesso degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono un paese in profonda crisi e nessuno vuole sapere questa cosa qua. Non se ne... Nessuno vuole sapere, non se ne parla. E insomma, riescono forse adesso a produrre abbastanza armi che poi non danno neanche all'Ucraina? Non lo so. No, vabbè, allora, la questione adesso, per quanto riguarda quei ragazzi lì, io non so cosa si possa fare, perché ci sono comunque tanti enti benefici, caritatevoli, eccetera, che possono provvedere a organizzargli dietro il contributo statale corsi di formazione al fine di, vabbè. No, invece per quanto riguarda gli Stati Uniti, allora la prima domanda da farsi fondamentale è che nessuno, come a voi penso a tutti i risulti, ha mai il coraggio di segnalare agli Stati Uniti il loro debito. Perché è chiaro che mentre a tutti gli altri si continua a vedere se sono in regola, nessuno può chiedere, si alza qualcuno a dire vabbè, ma voi con il vostro debito che come va a finire? Perché bene o male quelli rappresentano ancora la potenza militare più importante che c'è al mondo. Comunque ragazzi, se vogliamo scioglierci, possiamo scioglierci. Scioglietevi in nome della legge. Grazie a tutti, eh? Grazie.